Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail alla quale scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog. Guardie o ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore o attraverso un motore di ricerca. Ieri abbiamo cominciato a parlare di turismo sessuale, vale a dire quel genere di turismo nefasto che porta circa 80.000 italiani ogni anno a raggiungere mete di turismo sessuale, ma di un turismo sessuale particolare, quello che vede per vittime, spesso inconsapevoli, ragazzi e ragazze di età, ma di età diciamo così preadolescenziale in particolar modo. Abbiamo cominciato a parlarne con la direttrice generale di Intervita Onlus, un'organizzazione non governativa con base a Milano, milanese, che porta avanti progetti in tutto il mondo, ma li porta avanti anche in Italia, perché abbiamo sentito della sensibilizzazione nei confronti delle scuole italiane. Oggi continuiamo a parlarne con chi quei progetti manda avanti proprio laddove ce n'è più bisogno, perché è lì che si recano i nostri connazionali per compiere questo vero e proprio crimine nei confronti dell'adolescenza e quindi della futura vita di giovani ragazzi e ragazze. Purtroppo è un fenomeno drammatico che non interessa ovviamente soltanto gli italiani, ma tutte le società più evolute, tra virgolette lo dico, soprattutto quindi i paesi economicamente più sviluppati. Ed è per questo quindi che io do il buongiorno e il benvenuto a Giorgio Zucchello, che è un medico ed è coordinatore dei progetti nei paesi del sud del mondo per Intervita Onlus. Buongiorno Zucchello. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, voi lavorate soprattutto, quantomeno lei porta avanti soprattutto i suoi progetti, i vostri progetti in Brasile e Cambogia. Allora, può parlarcene? Soprattutto mi interessa capire se anche esiste una differenziazione tra questi due paesi sui progetti che voi state appunto portando avanti. Sì, certamente. Diciamo che in Cambogia lavoriamo su entrambi i fronti, cioè quello della prevenzione del fenomeno e quello, diciamo così, del trattamento, della cura. Io uso termini medici per farmi capire, ma penso che sia abbastanza chiaro a tutti gli ascoltatori. Certo. Che cosa vogliono dire questi due aspetti? E la prevenzione significa intervenire soprattutto sui meccanismi che stanno alla base della vendita, diciamo così, di questi bambini al mercato dello sfruttamento sessuale. E alla base di tutto, come sempre nei paesi del sud del mondo, esiste il fenomeno della povertà. Quindi si riconduce alla lotta alla povertà la lotta anche allo sfruttamento dei bambini dal punto di vista sessuale. In questo senso stiamo lavorando in Cambogia, soprattutto nella zona sud della Cambogia, al confine col Vietnam, con un partner locale. Intervita, faccio una piccola parentesi, non interviene mai o quasi mai in maniera diretta, ma sempre a supporto di partner locali. Cioè non abbiamo dei nostri uffici, del nostro personale espatriato che lavora nei paesi, ma entriamo in contatto attraverso delle nostre reti con dei partner locali e selezioniamo i partner che ci sembrano più idonei, più adatti per realizzare i progetti. Quindi supportiamo realtà locali, non interveniamo da fuori. Quindi attraverso questo partner, dicevo, che abbiamo assunto, che si chiama Wetnapic, il partner, stiamo lavorando soprattutto sul fronte della prevenzione, cercando di dare una possibilità attraverso la formazione professionale a un gruppo di ragazze di trovare una professione propria e quindi di creare meccanismi generatrici di reddito che permettano loro di evitare, di uscire in parte almeno dalla trappola della povertà, per poter evitare appunto di essere vendute dal punto di vista sessuale, la tratta delle persone. Ecco, eccetera. Quindi volgarizzando, voi fate in modo di provare con i vostri partner locali a dare un lavoro a queste ragazze che possano sottrarle dalla strada e quindi, diciamo così, togliere una possibile sacca di turismo sessuale. Esatto, sottrarre dalla strada o evitare che ci finiscono. Certamente, cioè, certamente. Intervenire ancora sulle persone che non ci sono ancora finite, che però sono a rischio di, e quindi attraverso un intervento di, appunto, di informazione professionale possono far imparare un mestiere e lavorare e quindi trovare reddito in un'altra maniera. Assolutamente. Mentre invece in Brasile? In Brasile anche lì in un certo senso lavoriamo nella stessa direzione, cioè sulla lotta alla povertà, ma attraverso un meccanismo diverso. In Brasile ci occupiamo, il progetto che abbiamo in Brasile si occupa soprattutto di creare meccanismi di turismo responsabile. In pratica lavoriamo nella zona di Fortaleza, che è al nord-est del Brasile, e che è una zona fortemente battuta, diciamo così, dagli utenti del turismo sessuale. E lavoriamo con alcune comunità aiutandole a creare dei propri meccanismi di turismo che siano alternativi al turismo di massa, ma che possono avere comunque un aggancio con le reti commerciali del turismo, che sono le cosiddette reti del turismo responsabile. In pratica che cosa facciamo? Aiutiamo queste comunità a costruire delle vere e proprie edifici, piccoli edifici che funzionano come loro le chiamano posadas, che sono praticamente, potremmo definirli un po' dei bed and breakfast per far capire agli ascoltatori, cioè dei posti dove la gente può arrivare, trovare l'accoglienza necessaria e seguire un percorso turistico che esce un po' dal turismo di massa. Questi percorsi turistici stanno avendo abbastanza successo e sono ovviamente un'importante fonte di reddito per quelle famiglie che vivono in quelle zone e che senza quel reddito si trovano spesso costrette a vendere, tra virgolette, i propri figli sul fronte del mercato del turismo sessuale. Ecco, le domande da fare sarebbero tantissime, ma ce n'è una che mi sta a cuore. Lei giustamente ha detto, e lo sentiamo dai suoi racconti, che alla base c'è una estrema povertà che spinge, con la disperazione indotta, a mettere sulla strada i propri figli. E le chiedo, l'altra parte della medaglia invece, quella della corruzione che spesso coinvolge i governi locali e nazionali dei paesi in via di sviluppo, vogliamo parlarne un attimo, dottor Zucchello? Ci vorrebbe una puntata apposta per parlare di questo. Lo so. Ma vede, la corruzione non è altro che una delle tante facce della povertà alla fine, no? Perché sono paesi dove la corruzione alle volte è così diffusa, è così penetra così nella società. Le faccio un esempio: se lei prende una multa, è normale che il poliziotto le chieda un piccolo regalo per non emettere il verbale, mentre da noi questa è una cosa che non succederebbe mai, perché in quel modo il poliziotto che prende i soldini di nascosto insomma arrotonda il proprio magro stipendio, che a volte non arriva per mesi perché lo Stato non paga i dipendenti pubblici per mesi, e riesce in questo modo a tirare avanti. Ecco, quindi c'è una sorta di costrizione, diciamo, da questo punto di vista, della persona che magari potrebbe essere potenzialmente anche di sani principi e valori, onesta, ma è indotta a sua volta dalla povertà a ricorrere a questi mezzi corruttivi. Ma la domanda non era fine a se stessa, era per portare poi ad un altro filologico del ragionamento, vale a dire, ed allora qual è il ruolo di associazioni quali le vostre o di paesi quali l'Italia nella collaborazione proprio con le istituzioni dei posti e dei paesi in cui voi operate. Vale a dire, quindi, deve esserci un accompagnamento, diciamo così, di politica estera da parte dei paesi dell'Europa e non solo nei confronti di questi stati, o mi sbaglio? Beh, guardi, la cooperazione internazionale, questo c'è scritto nella nostra legge sulla cooperazione internazionale, è parte della politica estera del nostro paese. Certo. Quindi è uno degli strumenti attraverso i quali l'Italia, come altri paesi europei, agisce la propria politica estera in tutto il mondo e soprattutto nel sud del mondo, dove si fa più cooperazione. Ci sono ovviamente diversi modi e diverse modalità per fare cooperazione, esistono i crediti di aiuto, i crediti agevolati, cioè esistono i grandi meccanismi, diciamo così, della cooperazione governativa. Noi in Intervita, essendo un'organizzazione non governativa, agiamo su un fronte un po' diverso e magari un po' più diretto, cioè quello che noi cerchiamo di fare, a differenza magari della cooperazione governativa, è quello di entrare più in contatto con le comunità, di entrare in contatto con i beneficiari diretti e finali degli interventi. Questo non solo noi come Intervita, ma un po' tutto il mondo delle organizzazioni non governative italiane ha questo scopo. La possibilità di avere un contatto e una conoscenza diretta dei beneficiari o dei partner locali, nel nostro caso, che poi realizzano i progetti, permette di capire molto più nel dettaglio i particolari di queste comunità e quindi di elaborare e di inventare a volte dei meccanismi di intervento che sono, come dire, disegnati, cuciti sui bisogni e sulle problematiche che riusciamo a capire da queste comunità stesse. Bene, io ringrazio Giorgio Zucchello di Intervita Onlus, coordinatore dei progetti nei paesi del sud del mondo. Ricordo il sito internet www.intervita.it per chiunque volesse visitarlo, e magari per le scuole che possono prendere contatti con i responsabili, scuole e non solo ovviamente. Dico grazie in regia a Fabio Contadori e in studio a Laura Fagin, e vi do appuntamento a domani con un nuovo ospite. Parleremo ancora di turismo sessuale. Da Roberto Galullo, una buona giornata a tutti.